Sono le 7:00. Da una Milano ancora coperta dall'oscurità, ecco entrare nei piccoli ma accoglienti studi di Rock FM un manipolo di eroi. Pronti a... pronti a cosa? Pronti a gestire al meglio questa trasmissione radiofonica, perché di questo si sta parlando, di una trasmissione radiofonica che quest'oggi segna la puntata 160. Si inizia una nuova settimana. Benvenuti, benvenute. Vi accompagniamo fino alle 9 del mattino, se lo vorrete, con pane, burro e rock and roll. Pane, burro e rock and roll. La tua colazione rock. La tua colazione rock. Come si dice? La migliore in circolazione. Pane, burro e rock and roll. Tracu, tracu, tracu, tracu, tracu, tra, tra. It's very good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Eccoci pronti allora a riniziare una nuova settimana in compagnia di pane, burro e rock and roll. Lunedì 14 di gennaio 2008, l'anno della svolta. Una buona giornata dalla voce dell'Ariele, una buona giornata e un'ottima settimana. L'augurio del nostro mister Trombetta e un saluto con la manina dal nostro tecnico Spadino. Anche quest'oggi a formare la squadra arriverà anche la redazione. Io qua si inizia sempre da soli, io e Spadino, eh. Com'è come non è, siamo qua io e lui e basta. E arriverà probabilmente anche qui, ma chi probabilmente? Certamente quest'oggi, altrimenti non lo paghiamo. Roberto Fricantoni, fugacemente il mio occhio si posa sul computer di destra, lo schermo che fa apparire i vostri SMS. Vi vedo già belli contenti, eh? Andremo a capire cosa succede. Certo, non è stato un weekend normale, tra virgolette. È stato il primo, sabato abbiamo segnato il primo raduno ufficiale di pane, burro e rock and roll in terra toscana. Tantissimi nuovi patentati. E quindi sono curioso, perché fino ad oggi la numerazione delle patenti davvero rocker era quasi per intero milanese, perché solo lì avevamo fatto i test attitudinali. Da oggi torneremo o scopriremo nuovi amici, sicuramente nuovi patentati al nostro numero di SMS. Puntata di oggi, Spadino la fa iniziare così. Bravo, bravo, bravo Spadino. Tanto per mettere subito le cose in chiaro, sarà che la radio si chiama Rock FM, ma a noi il rock and roll ci piace. E ci piaceva pure a Joan Jett. Cause it's all the same. So I'll take you home where we can be alone. And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. Take you home where we can. be moving on and singing that same old song. Yeah, with me singing. Mi piace il rock and roll. Quella vecchia zozzona di Joan Jett a iniziare allora musicalmente la puntata 160 di Pane, Burro e Rock and Roll. I love rock and roll. Sì, vedo già i primi numeri delle nuove patenti davvero rocker al nostro numero di SMS. Ricordo agli amici neopatentati che da oggi finalmente, quando se lo vorranno interagire con noi via SMS, potranno farlo segnalandoci anche il numero progressivo del loro tesserino personale, perché ognuno ha sul il suo bel numerino. Ore e ore di lavoro mie e di Isacco Rizzi. A Cesare, che è di Cesare, passiamo il pomeriggio a timbrare le patenti davvero rocker. Permettetemi di ricordarvi allora il numero esatto da comporre per contattare Pane, Burro e Rock and Roll. Risponde al 335 1 007 777. È un numero di cellulare che riceve solo SMS, è inutile telefonare, nessuno vi risponderà. Volendo, sentite il desiderio irrefrenabile di telefonarci, il numero è un altro: 0267 09 132. Segnalo anche Ariel, @radiorockfm.com, e ve li ho detti tutti quanti, come ogni santa mattina, in barba all'ascolto frazionato, perché ci sarà qualcuno che sente solo e unicamente questi minuti e si becca solo e sempre i contatti. Penserà che trasmissione orrenda che è Pane, Burro e Rock and Roll. Fanno solo i contatti. Invece non è vero, ma facciamo anche dell'altro. Se te lo perdi puoi riascoltartelo su radiorockfm.com. Il sito di Rock FM, dove giorno per giorno vengono pubblicate le puntate della nostra trasmissione per intero. Ce n'è di robaccia da combinare quest'oggi. Io ho un appunto della redazione: la cosa più urgente è che ci servono nuovi provinanti per diventare musicisti rock con la bocca. Vediamo di non fare i timidi là fuori e iscrivetevi al provino, altrimenti poi non lo potete fare. Noi finiamo i provinandi e dobbiamo smettere di fare la rubrica della musica rock con la bocca, che invece vogliamo continuare a fare. Ho ringraziato prima Spadino per il brano d'apertura, per questo invece, Spadino, lo sai che sono un ragazzo debole. Così a quest'ora del mattino, God Only Knows, a me mi spacca il cuore, capito? C'è da piangere, mi viene. Beach Boys, solo Dio lo sa. Sì, sì. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? prova. Eh sì, funziona. Prova. Buongiorno maestro. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Benvenuto dottor Ariel, frequenze di Rock DJ Ariel. Buon lunedì 14 gennaio. Buon lunedì 14, evviva! Che bello iniziare così la settimana. Ancor più bello se la iniziamo con un bel almanacco del giorno che fu carne al fuoco alle frequenze di Pane, Burro e Rock and Roll. No, cosa? Non si addormenti, si svegli, perché partiamo con una di quelle notizie che so lei apprezza particolarmente. Me la dica! Quando possiamo gioire per la nascita, per esempio, di uno strumento musicale, perché nel lontano 1690 a Norimberga, in Germania, viene inventato il clarinetto. Ah, il clavinetto! No, il clarinetto! Sì, il famoso clavinetto. No, perché parla così? Quello che ho portato al successo. No, cosa sto facendo? Quello che ho portato al successo. Questo è un blando tentativo di imitare Renzo Arbore con la Eve Moscia, proprio è patetico. Ma insomma, no, non mi pare adesso. Sembra più l'avvocato Agnelli. Va bene, sì. Ma il buongiorno le viene sempre bene. Passiamo a un anno che lei ama particolarmente. Il clarinetto. Ah, sì, 1954. Ah, un anno di ferro, evviva! Oltre a visto la luce Roberto Fricantoni, il 14 di gennaio Marilyn Monroe sposò Joe DiMaggio e ne disse gran bene, cioè tipo? Le cronache ovviamente riportano commenti estasiati su cosa? Riguardo al fatto che Joe DiMaggio fosse un grande amatore. Ah. Dunque un'altra ragione di vanto per noi italiani. Quindi non sta parlando della sua mazza da baseball, ma di altre cose. Naturalmente. Va bene. Della mazza di Joe DiMaggio. 14 gennaio del 1978, brutta notizia, Johnny Rotten lascia i Sex Pistols dopo l'ultimo concerto del tour americano. E ciao ragazzi, gli disse, esatto, e la musica internazionale ne soffrì, ne soffrì. Invece con una bella notizia di quelle che abbiamo aperto, e chiudiamo con una notizia di quelle che le piacciono. 1990, i Simpson, mai sentito? Il mio cartone preferito. Debuttano sul canale televisivo Fox come serie regolare. Ah, quanta intelligenza, quanto acume, quanta autocritica e raffinatezza in quella striscia, in quel videofumetto straordinario. Viva i Simpson! Evviva lunedì, evviva il 14, evviva gennaio! Si fermi. c'è una rivoluzione che parte alle 7 del mattino e arriva fino alle 9. Una rivoluzione sonora. Si chiama Pane, Burro e Rock and Roll e ha serie intenzioni di scombinarvi il cervello, perché non c'è senso in quello che ascoltate. I Cult alle 7:17. Qualcuno mi sgrida e dice che sono un po' troppo professionale stamattina. Sarò un po' più rincoglionito del solito, solo questo, un po' meno ore di sonno, sempre meno ore di sonno. Mi ci sto abituando ormai. Diamo il benvenuto allora ai nostri amici. Via SMS il primo non poteva, se non essere lui, il nostro amico Fungo, che addirittura si è spostato dalla Romagna che conta. Intravedo dai messaggi tanti amici romagnoli che ne hanno approfittato della trasferta fiorentina per venire a beccarsi la loro patente da vero rocker. Un saluto allora al primo, il Fungo, che commenta l'appuntamento di sabato così: birra a nastro, sesso nel bagno della Flog e patente, orgogliosamente Fungo. 0613 613, bravo, complimenti anche per la sveltina nei bagni, molto rock and roll. Il secondo saluto invece va al patentato 850, benvenuto anche a te caro Mauro. Che bello leggere le vostre patenti. Buongiorno, commenta, bella serata, sabato sera ci siamo parecchio divertiti, ma va bene che c'era Pitti Immagine, commenta il sarcastico Mauro. C'era Pitti Immagine uomo a Firenze, ma Max De Rio non se n'è approfittato un po' troppo? Saluto Mauro. E chi c'era quindi sa di cosa sta parlando Mauro, chiedetelo a lui, io. Max De Rio, no. Gestisco solo il cachet, nient'altro, poi siamo artisticamente liberi. Eravamo contenti così, Mauro, sarà lasciato un po' andare. Gli ho visto fare di peggio, se devo essere onesto, eh. Chiusa parentesi. Un altro, buondì Ariele, sveglia all'alba per essere alle 7:30 al lavoro. Solidare con voi e con chi è già in piedi, mi chiede se mi è piaciuta Firenze. Beh, ovviamente sì, cara Monica. Neopatentata 1008. Quindi abbiamo ufficialmente superato il migliaio, bene, molto bene. E un saluto anche a Quintalotto da Firenze, che invece si è perso la serata e dice: oh, tornate presto perché io mi sono perso patente davvero rocker e tutto. Speriamo, caro. Intanto Led Zeppelin, Communication Breakdown. We'll be right back. la spinta, la carica, l'energia di Rock FM anche stamattina. Pronti qui a tenervi compagnia con Communication Breakdown, Led Zeppelin. Non so cosa è successo al numero di SMS. Sono arrivati 40 messaggi prima che io dessi le coordinate. Da quando le ho date ha smesso di arrivare. O vi offendete, oppure c'è qualcosa che non va nelle nostre macchine, può essere, capita a volte. Per chi non si fosse mai sintonizzato su questa stazione radiofonica, benvenuto o benvenuta, questa è la colazione, la serviamo così, si chiama Pane, Burro e Rock and Roll, è un po' una gabbia di matti, si instaura tra noi e voi là fuori un rapporto un po' particolare, nulla di compromettente, se non che consegniamo queste patenti davvero rocker, quindi ognuno poi c'ha il suo bel numerino. Un po' Grande Fratello di Orwell, ma più o meno, molto più in spirito del rock and roll. Quest'oggi, caro Freak, prepara qualcosa, dobbiamo cucinare qualcosa di nuovo, ti va? Lo vedo con l'occhietto bello sveglio anche lui. Fortuna che in corner veniamo sempre salvati dalla grande musica di Rock FM, quella c'è sempre. Dio la benedica. E la nostra mattina prosegue con Saturday in the Park dei Chicago. Hai sentito che roba? Belli soft, belli tranquilli, belli morbidi. Ottima scelta. Notorious, McCartney, Jack Bruce. Beh, loro sono veri maestri del basso. Amici, fidatevi di noi, non diventerete mai come loro. O meglio, non lo diventerete mai se continuerete ad ostinarvi a voler suonare il basso con le dita. 1, 2, 3, 4. Pane, burro e rock and roll vi dà l'occasione di diventare bassisti rock con la bocca. Iscriviti al provino gratuito inviando un sms al 335-100-7777 con la scritta rock con la bocca. Sì! Non perdere l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca. Boom.